Con Alice Panada di Notorious Pictures per parlare del film A Private War di Matthew Heineman in uscita in sala il prossimo 22 novembre. Alice, ben trovata. Ci Ciao, a voi. presenti questo film? Assolutamente. Allora, il film ripercorre gli ultimi anni di vita di Mary Colvin, una delle più grandi inviate di guerra al mondo. Si tratta del debutto cinematografico di Matthew Heineman, che ha raccolto diversi consensi per i suoi documentari precedenti, tra cui Cartel Land, che è stato nominato agli Oscar. Il film è interpretato da Rosamund Pike, meravigliosa in questo ruolo, come negli ultimi ruoli, in particolare Hostiles. Sta facendo ruoli sempre più impegnati e continua a confermare la sua bravura e la sua professionalità. Il film è raccontato con estrema sincerità e autenticità, un po' con lo stile che rappresenta Matthew Heineman in quanto documentarista principalmente. Quindi diciamo che A Private War è allo stesso tempo un dramma di guerra, ma è anche uno studio del personaggio, quindi di questa donna straordinaria che ha cercato di portare alla luce la verità, perché come lei stessa diceva, la sua unica missione era quella di raccontare la verità e di alzare la testa contro il potere. Allo stesso tempo, ovviamente sappiamo che c'è un riscontro personale in tutto questo, quindi sappiamo che lei ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico e il film racconta proprio gli ultimi anni dei suoi viaggi, della sua vita, di questo disturbo, di come lei l'ha affrontato e di questo suo conflitto interiore tra il bisogno di partire, di dire la verità e il bisogno anche di avere una vita serena e normale come una donna normale. Senti, in parte l'hai già anticipato, però volevo chiederti quali sono gli elementi che più ti hanno convinto di questo film. Sicuramente l'interpretazione di Rosamund Sì. Pike e poi il fatto che lei è affiancata da un fantastico Jamie Dornan e da Stanley Tucci. Sono attori estremamente poliedrici che anche in questi ruoli fanno la differenza. Che tipo di distribuzione sarà? Sicuramente è un film di qualità, ma è anche un film adatto a tutti, a tutte le donne. Quindi saremo nella maggior parte dei multiplex e sicuramente nelle sale cittadine. Rispetto ai vari contesti di guerra, ecco, che quadro emerge dell'idea di conflitto in generale, per come l'hai visto, Alice? Qui emerge la parte più emotiva perché ci si sofferma molto sui civili, i civili innocenti che vengono poi coinvolti da queste tragiche guerre. Per esempio, nel suo ultimo viaggio, che è stato quello in Siria, ci sono delle scene in cui lei trova 28.000 civili tenuti in trappola in condizioni veramente brutali. Quindi diciamo che questo film è anche una sorta di denuncia. Spera anche in qualche modo di risvegliare le coscienze e di denunciare appunto questi risvolti tragici. Allora, ricordiamo l'uscita in sala del film A Private War di Matthew Heineman in uscita il 22 novembre. Un saluto e un ringraziamento ad Alice Panada di Notorious Pictures. Alice, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto.